Yo! L'ora lo putti era l'usciaga dell'origine. Ogni giorno in Palermo vedremo cose con ci piacciono. Senti lì sti picciotti in socco ti cantano. Vai su, vai su, vai su, vai su. Ammucca che ammucca fangata all'ordine del giorno. Guarda che arrivano che sai che te ne torno. Quello che ho te lo godo, sai che te lo torno con la raggia in dance hall. Ammucca che ammucca fangata all'ordine del giorno. Guarda che arrivano che sai che te ne torno. Quello che ho te lo godo, sai che te lo torno con la raggia in dance hall. Cerco di star bene andando dritto al posto giusto. Vedo solo all'orizzonte mentre piove su sto tratto. Faccio a meno delle soste che mi fanno perdere tempo. Soprattutto e dopo tutto sto tragitto. E incontro persone che la pensano come me, che vogliono campare e non tirare a sopravvivere. Non è difficile, minchia se è difficile. Per poche persone la vita per non scindere. A prescindere da come sogni d'essere, hai davanti a te sempre diverse problematiche. Ed è facile, minchia quanto è facile. Dopo tanti colpi basta poco a farsi abbattere. Ammucca che ammucca fangata all'ordine del giorno. Guarda che arrivano che sai che te ne torno. Quello che ho te lo dodo, sai che te lo torno con la raggia in dance hall. Ammucca che ammucca fangata all'ordine del giorno. Guarda che arrivano che sai che te ne torno. Quello che ho te lo dodo, sai che te lo torno con la raggia in dance hall. E mica sotto duro, cata presenta mega se vive. Come si cresce nel fango e come sopravvivi. Si picca l'iem se da ronza panza. Se da dove vuoi se sky se mezza e sada vivi. E non hai mai, proprio mai un braccio che ti tiri. Soltanto guai tutti tuoi, anche se li scrivi. Cazzi tuoi, quando calare tu vuoi. Ma penso che oramai sai, non ci avrete mai vivi. E nella giungla che vivo e faccio strada qua. Ed una putrida savana che ingannarti sa. E nella mema che noto senza mai affondare. Ad ogni costo, ad ogni prezzo sguscio tra lo schifo e so anche farti male. E c'è chi correre, correre, picchia e picchi fare. Ca, qui sopravvivo, guardi lo schio. Scavo nel buco di culo del covo. Cupo è più buio e ne esce vivo, vivo. Che un mi può agganciare il lupo, muto. E si dice chi luco, corri ma fate lungo. Prima cari tu punto e poi ti può scambare. E care ammucca che ammucca fangata all'ordine del giorno. Guarda che arrivano che sai che te le torno. Quello che ho te lo dodo, sai che te lo torno con la raggia in dance hall. Ammucca che ammucca fangata all'ordine del giorno. Guarda che arrivano che sai che te le torno. Quello che ho te lo dodo, sai che te lo torno con la raggia in dance hall. Quando avanzi tiro uno che vuol prendermi di petto. Mi scanso ma sinistra uno tenta lo sgambetto alla giabanna. Non ci vai, chi c'è solo lo sbalanco e tutti i lati non afferrano il concetto. E quando una re rilassi sull'urraggio e paura. E corri poi te picchio mai premura. E tutti i banni corri ritto la tu lo sbalanco. E tutti gli altri non afferrano il concetto. Palermo, Palermo, culo, sciacca, la su segno picchio è vero. Culi, frate, forze, na, passamo meglio. Accucchiamo come spugne, mo microfono, mi tegno. Mentre i lati non afferrano il concetto. Palermo, Palermo, culo, re, sì, ma si chiama facili quei piezza. Per pochi ce ne rime come la mette. Adesso cerca di capire sto concetto. Ammucca che ammucca fangata all'ordine del giorno. Guarda che arrivano che sai che te ne torno. Quello che ho te lo godo, sai che te lo torno con la raggia in dance hall. Ammucca che ammucca fangata all'ordine del giorno. Guarda che arrivano che sai che te ne torno. Quello che ho te lo godo, sai che te lo torno con la raggia in dance hall.